Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Chiedimi chi era Gaber. A raccontare Giorgio Gaber è Ombretta Colli in un libro scritto con il presidente della Fondazione Gaber, Paolo Dalbon. È stata un'esistenza ricca quella di entrambi, ciascuno sul proprio binario, ma nel momento in cui ogni volta che si intrecciavano poi le cose si moltiplicano e quindi effettivamente ci sono tanti intrecci, tante implicazioni. La distinzione tra il Gaber leggero dei primi anni e poi un Gaber più impegnato. Ecco, Ombretta vuole far capire che le cose non erano così schematiche, così banali, che c'è una grande ricchezza in tutta la produzione di Giorgio Gaber fin da ragazzo. Ovviamente io da ragazzo, 16 anni, ero rimasto folgorato dal teatro canzone, iniziata da lì. Anche con Gaber stesso io non ho neanche tanto approfondito questa cosa. Solo quando Gaber è mancato abbiamo chiesto i riversamenti di tutto quello che Gaber aveva fatto in televisione. E lì, guardando tutto il materiale che per la prima volta avevo occasione di vedere, mentre invece qualcosa soltanto mi aveva raccontato Gaber, ho cominciato lì a capire quanto spessore ci fosse in quest'uomo, in questo ragazzo già dal 62, dal 63. E Ombretta ha voluto appunto ribadire questo concetto, perché non c'è stata di fatto soluzione di continuità, c'è stata una lenta, progressiva evoluzione fino ad arrivare alle vette che soltanto il teatro canzone ovviamente gli ha consentito. È molto dolce il raccontarsi di Ombretta come moglie, come madre, come donna al fianco di un uomo importantissimo, ma è inevitabile il fatto che venga fuori anche la personalità di Ombretta come donna fortissima, come donna intensa anche lì, fin dal primo incontro. Sì, certo, perché sono due persone con una personalità molto forte, quindi anche molto indipendenti. C'è stata una dialettica molto intensa fra Giorgio e Ombretta, intanto una complicità di fondo che ovviamente lega due persone che si amano, ma soprattutto un rapporto dialettico molto intenso, anche con resistenze reciproche. Certo, avere il conforto, avere il sostegno, però sempre sul piano di una grande autonomia. In tanti hanno provato il desiderio di capire le reazioni e il rapporto tra i due durante la stagione politica di Ombretta Colli. È un capitolo che si comprende solo nel momento in cui si comprende davvero la forma mentis di Giorgio Gaber, che invece in tanti hanno cercato di leggere come lo volevano leggere loro. Sì, perché ci sono due elementi che Giorgio aveva. Uno era una coerenza con i propri principi, quindi in questo caso il principio del rispetto delle scelte degli altri. Quindi un essere democratico autentico, no? non di facciata, e questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto era che proprio in quegli anni, ancora prima che Ombretta facesse la scelta della politica, Giorgio cominciava ma aveva già iniziato a metà degli anni 70 a stigmatizzare questa finta contrapposizione fra politici, cioè a fronte di un disagio probabilmente mondiale sempre maggiore di squilibri, di ingiustizie, di cose che comunque non funzionano, la sensazione di essere in mano a qualcuno che non conosci si contrappone a questa finta importanza apparentemente decisiva che dovrebbe avere lo scontro politico fra la destra e la sinistra. E quindi quello che Giorgio cominciava a dire allora era: ci hanno messi in un recinto a giocare e a scannarci sulla destra e sulla sinistra, convincendoci che questa è la realtà. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con il presidente della Fondazione Giorgio Gaber, Paolo Dalbon. I prossimi appuntamenti con Radio Tube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.